Vi confesserò che non avevo accolto con un particolare entusiasmo la proposta della grande manifestazione antifascista del 25 aprile prossimo venturo. Avevo avuto persino una mezza idea di non farmicisi vedere per niente. E non perché non condividessi e non condivida i nobili ideali che avevano ispirato quella proposta, o perché non vedessi e non veda il pericolo rappresentato dal peso accresciuto dei neofascisti nella mappa del potere politico nazionale. Oltretutto credo di non avervi mai nascosto il sincero disgusto che mi suscita la sola visione dell'onorevole Fini, per non dire delle sue parole mielate. Il fatto era che io non credo particolarmente nelle ritualità degli anniversari e soprattutto che temevo anch'io, come altri, che una manifestazione del genere, oggi come oggi, corresse il rischio di venire vissuta come una specie di rivincita del risultato elettorale. È un vecchio difetto della nostra sinistra quello di sapersi consolare molto in fretta, in particolare di consolarsi delle sue debolezze politiche con la propria capacità di organizzazione e mobilitazione, come se un ingente spiegamento di forza in piazza potesse in qualche modo venire il dolore delle bastonate prese ad altri livelli, e il che è grave, perché in questo modo non si esibisce veramente una forza, ma una semplice illusione di forza, e con i tempi che corrono, credete a me, poche cose sono pericolose come le illusioni di questo tipo. Quando il gioco si fa duro, i duri seguono l'immortale lezione del poeta Giacomo Leopardi e affrontano la verità senza inseguire chimere consolatorie. Magari, visto che ci sono, cambiano gruppo dirigente. Ciò premesso, sono lieto di comunicarvi che ho cambiato idea e che il prossimo 25 aprile, a Dio piacendo, non riusciranno a tenermi lontano dalle piazze, neanche se gli organizzatori cambiassero idea e decidessero di tenere la manifestazione non a Milano ma a Reggio Calabria, dove peraltro ho degli amici carissimi. È una decisione che ho maturato serenamente, dopo aver ascoltato i molteplici appelli rivoltici da tutte quelle persone da bene, dal Presidente della Repubblica in giù, che hanno ritenuto opportuno invitarci alla riconciliazione nazionale. Li ho ascoltati, ci ho riflettuto e ho deciso che di riconciliarmi con i fascisti non sentivo e non sento assolutamente il bisogno. Non fraintendetemi, vi prego. Mi lusingo pensare che un poco ormai mi conosciate. E sappiate che non sono di carattere particolarmente trucido. Non intendo dire che io i fascisti vorrei vederli tutti spiaccicati sull'asfalto o appesi per i piedi agli appositi distributori di benzina. Oltretutto, so che oggi non ci sarebbero abbastanza distributori. Il fatto è che non vedo davvero come ci si possa ulteriormente riconciliare con loro. A me sembra, per dirvela tutta, mi sembra che con il fascismo ci siamo già riconciliati abbastanza. Non date quella retta alle querimonie dell'ipocrita Fini e dei suoi nuovi zelatori, come quel disgustoso Marcello Veneziani che chissà perché la televisione pubblica continua a riproporci con una specie di ossessione. Il 25 aprile del 45 ha segnato indubbiamente una rottura, ma una rottura che ha fatto fin troppo presto ricomporsi. A parte quei pochissimi che nei primi giorni della liberazione ci hanno lasciato la pelle, e nella maggior parte, va detto, si erano ampiamente meritato il loro destino, i fascisti sono rientrati fin troppo presto nella comunità nazionale. Non bisogna essere particolarmente versati nella storia del dopoguerra per ricordare che già nel 47 vi è stata applicata un'amplissima amnistia, e voluta, che Dio lo perdoni, da Togliatti in persona quando era guardasigilli, che l'epurazione è stata praticamente una burletta, che ancora prima della sconfitta delle sinistre del 18 aprile del 48 la classe dirigente e il ceto amministrativo del ventennio erano stati tranquillamente travasati nelle strutture della nuova Repubblica uscita dalla Resistenza. Non dovrebbe essere necessario ricordare a nessuno che i partigiani sono stati rapidissimamente smobilitati e mandati a casa con un'amichevole pacca sulle spalle, anzi più spesso, più che di un'amichevole pacca sulle spalle, si trattava di un energico calcio nel sedere, mentre la polizia ex fascista, le gerarchie militari ex fasciste, la burocrazia ex fascista, la magistratura ex fascista, la scuola e l'università ex fasciste restavano bellamente sulla breccia e improntavano di sé la realtà che si pretendeva come nuova. Io non vi voglio tediare con particolari inutili, ma chi ha vissuto gli anni 50, i primi anni 60, fino al vituperatissimo 68, si ricorderà benissimo che il clima che si respirava allora non era proprio un clima di antifascismo entusiasmante. D'accordo. Festeggiavamo il 25 aprile e non il 28 ottobre, ma non mancavano neanche gesti piuttosto espliciti di valore simbolico opposto. Come quando sull'alba degli anni 50 il giovane Andreotti, che già allora era un personaggio piuttosto importante, si recava piamente a rendere omaggio al generale Graziani, che, poverino dell'esercito della Repubblica Sociale, era stato capo di Stato Maggiore e se l'era cavata con 5 anni di reclusione formale. E se il partito che raccoglieva istituzionalmente l'eredità del fascismo repubblichino, l'MSI, non è mai entrato in una combinazione parlamentare di maggioranza, e non perché nessuno ci abbia mai provato naturalmente, se non c'è mai entrato sappiamo tutti lo stesso dei rapporti e delle collusioni intrattenute fino a ieri, fino a oggi, fino a stamattina, con la galassa neofascista dalla struttura del potere più o meno occulto dell'Italia democristiana. E allora, porca loca, che senso ha questo blaterare della necessità di una riconciliazione in un paese che di conciliazione ne ha già avuta fin troppa? Io, se devo proprio essere sincero, temo molto che la conciliazione di cui si parla sia simile a quella, non a caso promossa proprio dal fascismo, tra la Chiesa e lo Stato nel 1929, una conciliazione che notoriamente ha segnato l'inizio di una lunga fase di sopraffazione della prima sul secondo. Ho una gran paura che quegli appelli oggi nascondano malamente soltanto la volontà di autocelebrazione e di rivincita di una delle due parti, che intende sfruttare questo momento favorevole, che speriamo sia provvisorio, per cancellare persino il ricordo di quella volta in cui l'iniziativa è venuta veramente dal popolo e i padroni del vapore hanno corso per un attimo il rischio di perdere il loro maledetto potere. Le polemiche di questi giorni non hanno nulla a che vedere con il problema della verità storica, su cui, nonostante quello che continua a sproloquiare l'orrido Veneziani, esiste ormai un consenso piuttosto diffuso tra gli studiosi dell'orientamento più vario. Esprimono, o sottintendono, soltanto un programma revanchista che passa attraverso l'umiliazione degli avversari, attraverso la nostra umiliazione. Per questo il nostro 25 aprile non sarà, ripeto, non sarà una festa di conciliazione.